Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mattino, ascolto su Radio 24, Alino. You wanna be Americano, Americano, Americano, but you were born in Italy. You try living alla moda, but when you drink whiskey soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play the baseball. Ma sono di Bechamel, che tallita l'arba santa di mamma. You wanna be Americano. Se step child adoption. Step child association, adoption. Step child adoption. Questa schifezza che si chiama stepchild adoption. La spregevole pratica dell'utero in locazione. Negli affemminati, negli omosessuali, la donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna. Le Gianni Nannini, gli Elton John, i Dolce e Gabbana. Note, scusate ragazzi, note icone, vabbè dovete appoggiare Renzi, però rompete le scatole. Tu vuoi fare americano? No alla stepchild adoption, che rischia adoption, scusate. Meno male che venerdì il Senato chiude, eh? Tutti a casa, andate a casa, che ci vuole un po' di riposo, eh? La ma io non si sapeva perché non parlate l'italiano. New re, come si chiama? New review, poi c'è job. Ma vuol dire affanculo? Noi siamo italiani, perché mi ha parlato inglese? Vabbè ragazzi, ma la saggezza popolare del nostro ascoltatore napoletano. Meno male che chiude tutto. Andate a farvi un bel weekendone lungo al Senato, va. La stepchild adoption. Chita morta, va. È così. La stepchild. Ma il migliore è l'utero in locazione, ragazzi. L'utero in locazione. Come Forchielli che ci ha detto, ma. Ma l'utero in affitto prevede la cedolare secca. Ecco. Vede che Forchielli ha anticipato quello che è successo veramente. L'utero in locazione. Dai. Mamma mia ragazzi. Adops. Dai, sono le 6:32 minuti, cari italiani. Questa è 24 mattino. Ben svegliati, ben svegliate, ben svegliati. Tra l'altro, la 144esima settimana decisiva per l'abolizione delle province si conclude con un nulla di fatto. E allora andiamo avanti. Peter Bescapè lì in regia, il nostro Lorenzo Nespoli in redazione, Lorenzo Nespoli che scova poi tutti questi audio, quello che ce li manda, ce li fa mandare in onda. E come dire, devo subito salutare Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it. Eccolo qua. Good morning. Poi abbiamo, guarda, caro Angelo, guarda che qua abbiamo una laureata, se non sbaglio, proprio in lingue. Vladimir Luxuria! Vladimir è una persona molto sensibile, non il russo. Ha un sentire, come dire, delicato. Si sa. Vero Vladimir, guerriero, eccoci, guerriero della libertà. Della democrazia nel suo paese. Come va? È vero che sarà. Hi everyone. Stepchild Adoption. No, ma sai che secondo me c'è qualcuno che pensa che gli Stepchild Adoption, una band che suonerà a Sanremo. Può essere. Dobbiamo chiarire anche. Non si tratta. C'è anche chi pensa che l'utero in affitto abbia a che fare con affittopoli. Esatto. Secondo me è un po' di confusione. L'utero in locazione. Quella è la migliore, Perrino. L'utero in locazione. Sì. Tempo di locazione. Dunque sì, generalizziamo pure, sì. Saluto intanto, sì. Good morning a Vladimir. Good morning a lei, direttore. Good morning a tutti. Director. Va bene. Thanks. No, in genere chiedo i voti a chi parla in inglese, in francese. Adesso sentiremo ancora Renzi, ma qui non siamo neanche a livello del voto. Qui siamo proprio, come dire... Che dobbiamo fare, Perrino? Un'antica piaga nazionale questa dell'inglese, un disastro. Ci ricordiamo anche Rutelli quando presentò Ci piace l'Italia, una roba simile. Sì. Un video che è diventato un calcio mitico, della rete. Mitico. Sì. Ieri l'abbiamo fatta anche sentire. Ma apriamo il Parlamento, dai, che così insieme a Perrino... Adesso vado a prendere un caffè. Insieme alla nostra Vladimir Luxuria, che ricordo poi alle 9 sarà col Geco la Farfalla su Radio Capita. Tra l'altro devo chiederti scusa, Vladimir. Perché? Cos'è successo? Ma anch'io un po' ci sono cascato. Cioè, nel senso, allora tu hai detto che era una battuta, ed era una battuta quella sulla Meloni, no? Figli trans, auguri ai figli trans, perché tu dici, ma insomma, si dice sempre auguri figli maschi, auguri figli femmine e auguri figli trans. Sì, perché era una cena una volta, mi ricordo. Allora una mia amica disse a tutti che era rimasta incinta, quindi... Un po' tra lo scherzo, tra il serio e il faceto, un uomo disse auguri ai figli maschi. Una donna ha risposto: no, guarda, auguri ai figli femmine. Hanno cominciato un battibecco tra loro. E tu l'hai chiuso. E io per fare una battuta ho detto: vabbè, sai che c'è? Adesso mi metto d'accordo tutti e due, auguri ai figli trans. E da quel momento io sempre, ogni volta che so di una gravidanza, una cosa ho sempre detto come battuta: auguri ai figli trans. Visto che ho visto in rete fognaria tutta una serie di insulti, anche abbastanza un po' pesanti, sulla Meloni. Ho mandato un tweet che secondo me doveva essere rasserenante. Sì, auguri rasserenante. Alla faccia rasserenante, ma hanno messo veramente alla gogna. No, io alla gogna no, mai, e lo sai. Però ho detto in onda, ma anche tu Vladimir, come ti è venuto quel tweet? Vabbè, insomma, era una battuta, adesso niente, quindi chiudiamola lì questa questione. No, ti devo chiedere scusa perché anch'io un po' ti ho ripreso, insomma, dai, anche Vladimir, anche tu. Ma invece... purtroppo il contesto, no? Una frase buttata lì, cioè, uno può interpretarla in mille modi. Il contesto, diciamo, c'era stato il Family Day, c'erano stati tutti questi insulti sessisti bruttissimi contro la Meloni. Quindi mi hanno messa, capito, in tutta questa cosa, il mio tweet è sembrato essere, no, una sorta di sullo stesso livello di questi, quindi questo che mi ha dato molto fastidio, sinceramente. Poteva essere offensivo per chi ritiene che i trans siano una cosa negativa, ma non lo è per l'uccurio. Appunto, ma nessuno ha fatto questo ragionamento, cioè che secondo... Cioè, dal punto di vista dell'analisi semiologica la soluzione mi sembra evidente. Sì. Io però vorrei capire per questa cosa dell'unione civile, adesso c'è il ricorso di 40 senatori alla Corte Costituzionale, poi c'è la nuova proposta di alcuni dire facciamo la step adoption, quella roba lì. È un ballo come il cha-cha-cha. Esatto, facciamo il cha-cha-cha, chiamiamolo che così che tutti sono d'accordo. È temporaneo. Immagino un bel cia tra Scilipoti e Razzi. Esatto. No, lo propongono temporaneo, cioè diamo in adozione temporanea, cioè ormai siamo alla burletta, non so come dire, e io lo dico da sempre, o si fa questa cosa o non si fa e non se ne parli mai più. Però ecco, vorrei da Perrino e da Vladimir Luxuria, Perrino, perché si parla sempre di questo utero in affitto, che peraltro è un'espressione molto spregevole, quando l'utero in affitto in Italia è vietato, rimane vietato, nella legge non c'è niente che riguardi l'utero in affitto, però se ne parla come una, di una minaccia futura, possibile, un'apertura, perché si è spostato? Quando ci sono questi cambiamenti che lavorano sugli stereotipi, quelli più interiorizzati da un popolo, ci sono ovviamente questi fantasmi, e dunque intorno a una paura, un timore molto interiorizzato e molto profondo, si evocano scenari cupi. Era così anche ai tempi del divorzio, no? Voi siete giovani, ma io c'ero, e niente, sembrava che il mondo dovesse andare a scatafascio. Dunque è normale che ciò accada, è normale che si anche i gruppi più oltranzisti, ma non solo i gruppi più oltranzisti, i gruppi cattolici, sì, lancino questo allarme, lancino questo allarme. Ma questo rischio non c'è, anche perché la famiglia naturale è un concetto che filosoficamente non esiste, la famiglia evolve e tutte le istituzioni sono in forza dell'evoluzione della specie, diciamo, funziona così anche nella società. Sono il frutto dei valori e degli equilibri in quel momento. Quindi in insomma, questo momento storico chiede questo cambiamento. Ci si porta in avanti. Per esempio, mi ha stupito Popper, un grande filosofo, non si può ricavare una norma da un fatto. Da un fatto. Ma dove vai col telefono? Ogni tanto sparisci. No, stai attaccato, perché ti perdiamo ogni tanto. No, senti qui, Vladimir, anche Beatrice Lorenzin, ministra della Salute, una in genere, vabbè, ha le sue idee, è abbastanza convinta, cattolica, però è una sempre un po' pacata. Invece ha parlato questa volta di ultraprostituzione per l'utero in affitto. Utero in affitto, perché ultraprostituzione? Perché qui si tratta non semplicemente della vendita del proprio corpo per mangiare, come avviene in questi paesi, ma addirittura della vendita dei propri figli. Capito? Capito. Hai detto che io te lo dico, io sono invece contrario, sono contento di vivere in un paese dove la, diciamo, maternità surrogata, questo è il termine giusto, è vietata. Io sono di questo parere, Vladimir. Allora, diciamo, intanto sulla storia del divorzio, che richiamo che ha fatto il direttore al divorzio, è interessante, perché ai tempi Fanfani fece la grande minaccia, disse attenzione che se verrà, se ci sarà il divorzio, le vostre mogli scapperanno con le vostre domestiche. Era un po' questo il fantasma. Detto questo, a parte, allora, io sono contraria alla maternità surrogata per sfruttamento commerciale. Sì. Quindi nei paesi e quello è un reato proprio, È un reato, però voglio ricordare, lo dico, che per gli omosessuali è impossibile, anche da un punto di vista legale, poter ricorrere a questi paesi, perché per esempio in India è vietatissimo per gli omosessuali, l'omosessualità è un reato in India, e anche per gli eterosessuali italiani è vietato ad esempio in India, perché c'è una legge che dice che è possibile solo per quelle coppie che fanno questa richiesta, che vengono da nazioni dove non è vietata la maternità surrogata, quindi per gli italiani non è possibile. Quello che fanno quei pochissimi, che sono pochissime coppie in realtà, si parla di pochissime coppie gay che hanno fatto questo, si parla di cliniche che si trovano in California e in Canada, sono le uniche che lo consentono. Cioè, per esempio, dove il senatore Lo Giudice, che è stato nostro ospite 2 giorni fa, è senatore. Quindi c'è tutto un protocollo, la donna deve aver già fatto dei figli, deve essere l'ovulo non della donna già impiantato, quindi non c'è neanche un legame, diciamo così, biologico tra diciamo così ereditario di geni tra la donna che ospita questo ovulo e l'ovulo stesso, quindi c'è tutta una serie di indagini psicologiche, eccetera eccetera. Il rimborso deve essere un rimborso solo delle spese, non ci deve essere un profitto. Tu questo lo accetti? Tu questo non sei, non io, sei io accetto questo, come accetto per esempio che le nazioni dove questo è possibile ci sia una sorella che può portare avanti una gravidanza, che lo fa per esempio per un'altra sorella che ha avuto la asportazione dell'utero. Sì, che lo io credo che dove ci sia non un motivo commerciale, ma un motivo altruistico, un umanitario, umanitario, diciamo. Per me rientra un po' nell'idea della donazione degli organi. Attenzione però che padre Livio ci ascolta. Oddio. No. Oddio, guarda, ora... non lo faccio perché sono una signora, certi gesti apotropaici. No. E poi padre Livio querela. Perrino, stai attento, che poi querela. No, sai assolutamente chi? Massimo rispetto per padre Livio. Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, che ha detto che anche lui con l'inglese, senti qui, anche lui con l'inglese parla di copyright delle dichiarazioni su Radio Maria, senti qui. Questo commento alla stampa da tanti anni viene pubblicato sul sito INE di Radio Maria dopo 2 o 3 ore che l'ho fatto. Col copyright di Radio Maria è un copyright, non può essere riportato. La mia voce non può essere riportata senza il nostro permesso. Quindi già noi, la mia voce non può essere riportata senza il nostro permesso. Attenzione. Oh yeah. Come faccio adesso? Senti qui Vladimir, attenta anche tu, attenta. Senti. Cioè, se sarà necessario andremo per vie legali a quelli che falsificano quello che io dico in radio. Chiaro? Mannaggia. Falsificano, non è che falsifichiamo, mandiamo in onda la voce, però insomma, padre Livio, vabbè, insomma, niente. Radio Maria funziona di più quando dicono il rosario. eccolo lì. Va bene. A questo punto, dimmi. Una volta uno diceva: attenzione, che c'è l'inferno, no? Per spaventare. Lui dice sempre: è il diavolo. È il diavolo. Adesso però dice pure: attenti, ricordati che devi morire. Attenti, sì, ricordati che c'è il funerale. Cioè, no. Radio Moria, la soprannominata Bruno Gramellini oggi sulla stampa. Radio Moria, d'altronde, ricordati che devi morire. E arriverà il giudizio divino per tutti. Alle 6:45 minuti in punto, andiamo ad ascoltare il traffico, poi siamo con Vladimir Luxuria e Angelo Maria Perrino, torniamo tra un attimo. Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Comunque è vero, come diceva un ex presidente del Consiglio, che fare il giudice è una patologia, una malattia che nuoce fortemente alla salute. La steppa child, la steppa association, ma noi abbiamo sta gente qua al governo, italiani, rendetevene conto. Presidente del Consiglio, ma vai a studiarti il francese come è giusto che sia, ma se fa possibile, se è incroyabile. Eh sì, perché cara Vladimir, caro Angelo Maria, qui Renzi ci ha regalato un'altra perla, lo sapete, no? Dopo l'inglese e il francese, però non lo so, io devo dire, a francese sto a zero e quindi non posso dare voti. Ieri credo alla nostra ascoltatrice da Monte Carlo ci ha scritto che gli darebbe un 6, gli ascolta da Monte Carlo, e ci ha detto gli darei un 6 a Renzi. Tu Vladimir come stai a francese? Io bene in francese, lo parlo abbastanza bene. Ah, e allora sentiamo Renzi, dai, che possiamo... La Renaissance, j'étais le maire de Florence, je connais très bien l'incroyable histoire... della Renaissance. Vai, prof Luxuria, cosa diamo? Tutte le cose le cosa gli diamo? Sto dicendo che lui, essendo stato il sindaco di Parigi, conosce bene il Rinascimento. Attenzione, qui c'è un problema di gender, perché il Rinascimento in maschile in italiano diventa la Renaissance in francese. Quindi se ci sentono quelli del gender, dicono che facciamo un po' di confusione. Questa è penna tra rossa, femminile. Questa è la penna rossa, questo errore. Ma di lussuria. Esatto. Quindi voto? Dai, sei meno. Vabbè, però voglio chiedervi questa cosa. Sei più perché ha una bella faccia tosta, Renzi, nel senso che si lancia nonostante le figuracce, e rispetto ai predecessori che invece avevano bisogno sempre dell'interprete di fianco, come quando fanno i telegiornali per i muti, no? Un incoraggiamento, come ci diceva a scuola. Allora, no? Voglio invece chiedervi una cosa molto seria, un parere. Non so se ieri avete visto l'intervista di Franca Leusini. Io sono un leusiner, l'ho detto più volte, dichiarato. Non toccatemi Franca Leusini, un mito assoluto. Non so se ieri avete visto l'intervista a Luca Varani, condannato per essere il mandante dello sfregio in volto a Lucia Annibali. L'avete vista? Io non so mai dove la mettono in onda la Leusini. È un fantasma che si aggira sui giornali, ogni tanto esplode. Ma dove cavolo la ma era su Rai 3 alle 21, era in prima serata. In prima serata. Niente, vabbè, anche te però. Vladimir. Ho visto i talk show, purtroppo siamo malati di giornalismo. Vabbè, ma c'è, ma ragazzi, i talk ieri show. Ieri sera Formigli piuttosto che Virus. No. Morti da anni. Non loro. Ricordati, ma no. Il formato. Sì, Vladimir, tu l'hai vista? No. Non l'ho vista, però poiché credo che ci sia un processo in corso. Sì. Non l'avresti mandato in onda. La stima. Allora io farei insegnare a quelli che hanno pagato i debiti con la giustizia, gli farei fare tutti i corsi che vogliamo, farei intervistare eccetera, però quando ci sono dei processi in corso e ci sono ancora delle prove che si stanno, non so, sarei un po' più cauta nell'intervistare delle persone accusate di reati così gravi, perché c'è una donna che continua ad andare in giro a Lucia Annibali per testimoniare col suo volto acidificato tutto l'orrore di un uomo che la voleva cancellare la sua bellezza. E Lucia Annibali, che oggi scrive una lettera al Corriere della Sera dicendo: sapevo già da settimane dell'esistenza di questa intervista, ma ho deciso che quella sera, cioè ieri sera, sarei andata fuori a mangiare una pizza per non vedere, perché sono sorda ormai per scelta alle parole di quest'uomo, non voglio minimamente, insomma contesta anche nella lettera il fatto di mandare in onda questa intervista. Io non lo so, invece sarà che sono di parte, nel senso che appunto il mio la mia passione per tutto quello che va a Franca Leusini è nota, ma ritengo invece che si possa mandare in onda. Perché è una straordinaria giornalista, cioè ha il coraggio di raccontare storie. Ma che travaglio, ma lascia perdere. Nel senso che sulla giudiziaria hanno costruito una competenza, una competenza, sì, cioè entra nelle storie. Il programma, per inciso, si chiama Storie Maledette, quindi racconta, tra l'altro da 20 anni, 30 anni racconta le storie di crimini e di criminali, facendoceli vedere in faccia, facendoceli conoscere, cercando di entrare nel loro mondo. Cioè non capisco che male ci sia in tutto questo. Scusa, ridico, insomma, hanno annullato una testimonianza che dovevano portare due ex terroristi, no? Tipo la Faranda e l'altro, non mi ricordo come si chiama, un corso di magistratura a Scandicci, perché appunto ex terroristi, perché e adesso invece una persona ancora non ha pagato la giustizia in qualche modo. L'unica questione può essere quella che dici tu, cioè il processo non è ancora chiuso, manca la Cassazione, questa è la questione vera, ma ne hanno fatto un'opportunità di dire: ma no, non si intervista uno che ha fatto una cosa del genere. Allora non intervistiamo Bin Laden, quando è stato intervistato Bin Laden, non intervistiamo uno che sbaglia, cioè Perrino, qui è una questione proprio giornalistica, bisogna intervistare solo i buoni, i giusti. Se vogliamo parlare dal punto di vista proprio tecnico giornalistico, allora dipende dal momento in cui fai l'intervista, perché un conto è intervistare un imputato dopo il giudizio di un giudice e quando gli elementi del processo sono tutti chiari, acclarati e passati alla storia, diciamo, altro è intervenire nelle more del processo, quando non tutte le questioni sono state messe agli atti e giudicate, e quindi in quel caso qualsiasi giornalista dà una visione parziale e incompleta dei fatti e rischia di alterare poi il successivo. Quindi è una questione proprio di quando, il fatto che manchi. Sì, tecnicamente è il quando. Se un imputato in attesa di giudizio è difficilissimo schierarsi, si rischia di far pendere poi la bilancia della pubblica opinione in un senso o nell'altro. Va bene, io voglio anche chiedervi in conclusione intanto una ve la devo fare sentire, perché so che Vladimir Luxuria ci tiene, è un suo amico, una persona che ammira, una persona che politicamente forse ha anche votato in passato, cioè Ignazio La Russa. Si parla inglese, no? No. Però dice, sentite. Non è questione di quantificare, le persone che sono oggetto di un provvedimento. Siccome ci sono i ladri, regolamentiamo il furto. Cosa c'entra questo? È uguale. È uguale, parlava delle adozioni gay. Siccome ci sono i ladri, regolarizziamo il furto. Ci sono le adozioni gay, perché esistono famiglie così. E allora... è bello il paragone, non è bello. L'argomento di Popper di cui parlavo prima, cioè non si può ricavare una norma da un fatto. Se anche la natura ci dicesse che siamo diversi, da qui non possiamo ricavarne una teoria sulla diversità che crea ingiustizia. Capito, lezioni di Popper. L'uomo che decide, e le norme sono il frutto del convergere dell'umanità su alcuni principi in evoluzione. Capito. Tu Vladimir, hai qualcosa da dire alla Russia? Guarda, l'adozione, a parte l'adozione non è possibile in Italia e non lo sarà ancora in Italia, quindi sì. Per cui per esempio per due uomini, mentre per due donne possono fare la fecondazione eterologa, non c'è problema, o anche altri metodi, per due uomini quello della maternità surrogata resta l'unico metodo. Ma io dico una cosa, allora c'è tanta confusione, no? A parte l'inglese stepchild adoption, ricordiamo una semplice cosa: questa legge non è che consente poi la maternità surrogata in Italia, che resterà un reato, punito col soldi, col carcere, eccetera. Dice semplicemente, poiché questi bambini già esistono, anche se ci sono i divieti, eccetera, eccetera, regolamentiamo soprattutto i doveri di chi non è il genitore biologico, di chi convive, affinché questo bambino possa essere tutelato nel caso che, insomma, al genitore naturale gli succeda qualcosa. Sì, semplicemente questo. Vabbè, insomma, il tema... Posso farvi una domanda? Come no? Io? Ma certo. Domanda politica. Secondo voi perché Renzi ha voluto portare avanti questa legge, questa discussione? Ma lui dice in realtà che è una legge parlamentare. In collisione con la cultura... No. Cattolica. E dacci la risposta. No, io forse ce l'avrei, lo so, nel senso che lui prima era contrario. Sì. Ricordiamo che nel 2007 Renzi ha partecipato al Family Day, nei Dico non c'era neanche tutta la, quindi era proprio contrario. Cosa è successo? Nel suo staff, quando ha cominciato a fare le primarie, c'è una ragazza che ha avuto una figlia con un'altra donna in Spagna. Sì. Lo hanno invitato ad andare a casa sua. Lui ha conosciuto. È cambiato idea. Credo che abbia una bambina. Loro hanno spiegato tutto il problema che se succedeva e lui, proprio per un'esperienza personale, ha cambiato idea. Altrimenti, uno come Renzi, di formazione cattolica, ex boy scout, con la moglie che è contraria, che ha un fratello prete. Forse questa è la dimostrazione che se si conoscono poi le cose, le persone. Idea. Si può cambiare idea, ed è giusto che sia così. Vabbè, lasciamoci con questo dubbio, questa spiegazione di Vladimir Luxuria. Io vi devo salutare, assolutamente ringrazio il direttore di affariitaliani.it, Angelo Maria Perrino, e Vladimir Luxuria, alla prossima. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. Donne! Tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. 7:19, cari ascoltatori, è venerdì. E la settimana 144 per l'abolizione delle province si conclude, anche questa con un nulla di fatto. la 145esima, sentite come suona così rotonda, 145, magari regalerà qualche sorpresa imprevista. Comunque, chi lo sa, chi vivrà vedrà, andiamo a leggere i giornali. Questo venerdì 5 febbraio, i titoli di Sole 24 Ore apre con il monito di Draghi, il presidente BCE: forze globali concorrono a tenere bassa l'inflazione. Questo è il virgolettato del presidente BCE Draghi. Poi la maggior parte dei quotidiani apre sui misteri della morte di Giulio Regeni al Cairo. Torture, botte, così è morto Giulio. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Mentre Repubblica: Giulio scrisse, ho paura. Per La Stampa: Giulio, polizia egiziana sotto accusa. Il Messaggero: Giulio, torture e depistaggi. Sul Manifesto, visto che Giulio Regeni ne era un collaboratore, anche se scriveva sotto anonimato e sotto con la firma uno pseudonimo proprio per evitare i rischi, c'è la foto di Giulio Regeni, il titolo è Il Testimone, e c'è l'articolo, l'ultimo articolo di Regeni, tra poco lo leggeremo. Mentre Il Fatto Quotidiano: Giulio torturato e ucciso, le bugie dell'alleato Al-Sisi. Al-Sisi è il presidente dell'Egitto. Altri titoli per il giornale: qualcuno ci sta rubando i soldi, l'altalena delle borse. Mentre Libero: sulle banche noi perdiamo i soldi, loro se ne fregano. Avvenire invece: profughi, via giusta. Prima famiglia a Roma con i corridoi umanitari, pronti 9 miliardi di euro per aiuti a Damasco. Questi i titoli. Invece l'Unità continua, i titoli contro il Movimento 5 Stelle, confusione a 5 Stelle, questo è il titolo di prima pagina, ennesima figuraccia dei grillini, i soli a non votare la legge Dopo di Noi a sostegno dei disabili, di cui abbiamo parlato anche poco fa nel giornale radio. Io però voglio partire da questo articolo. Non so se abbiate visto ieri Franca Leosini e l'intervista a Luca Varani, Storie Maledette su Rai 3. Luca Varani è colui che è stato condannato fino all'appello, manca la Cassazione, per essere il mandante dell'aggressione a Lucia Annibali, sfregiata nel volto con un acido. E Io l'ho vista, perché non mi perdo nulla di Franca Leosini, e l'ho detto più volte, ci sono state polemiche sull'opportunità di mandare in onda questa intervista, soprattutto a processo non ancora concluso. Io sono del parere che sono polemiche assurde, ma tant'è. Perché ne parlo? Perché oggi Lucia Annibali prende carta e penna e scrive una lettera pubblicata dal Corriere della Sera in prima pagina. Sapevo già da settimane dell'esistenza dell'intervista maledetta, ma nemmeno per una frazione di secondo ho preso in considerazione la possibilità di guardarla. Anzi, ho deciso, seduta stante, che quella sera sarei andata a mangiare una pizza con mia cognata, ed è quello che ho fatto. Da tempo ormai le mie orecchie sono diventate sorde a ogni parola di quell'uomo. Scrive ancora Lucia Annibali: il giorno in cui l'imputato Varani chiese attenzione per dichiarazioni spontanee ai giudici, io sono uscita dall'aula del tribunale. Io c'ero mentre vivevo nel terrore ed ero lì le volte in cui sarei potuta morire. La verità è sempre una sola e non posso accettare che si provi a metterla in discussione. Non ho bisogno che qualcuno mi racconti com'è andata o che mi spieghi cosa ho provato in quei momenti. Ho sperato fino all'ultimo che anche i miei genitori scegliessero di non ascoltare, scegliessero di non aggiungere dolore al dolore, ma loro sono genitori, io da figlia ho capito e ho rispettato la loro decisione di guardare l'intervista, che a ben vedere a qualcosa è servita anche a me. Il gran giro di telefonate ricevute da chi mi chiedeva «Vedrai la TV?» mi ha permesso di risentire persone che non sentivo da mesi e che non finirò mai di ringraziare. Lascio che siano gli altri a dare spettacolo di sé del mio dolore. Io di quello spettacolo non voglio nemmeno una particina da spettatrice. Non mi interessa. La sola cosa che mi interessa mentre va in scena tutto questo è continuare a resistere, esercitare il mio diritto di donna, vivere in piena libertà e autonomia, avere l'orgoglio di mostrare i segni che porto sulla mia pelle perché sono fiera di quello che sono. Ho scelto la vita fin dal primo istante, non consentirò al male di avere il sopravvento e non ci sarà persona o trasmissione che potrà buttarmi giù. Non permetterò a nessuno di compromettere la mia serenità. Non risponderò a nessuna domanda, né voglio più parlarne. Questo è tutto ciò che ha da dire su questa vicenda, che mi sento di definire uno dei tanti effetti collaterali dell'essere vittima di un reato. Così Lucia Annibali, una lettera piena di straordinaria dignità e forza, come sempre ha dimostrato fin dal primo giorno dopo questa aggressione questa donna. Rimango della mia idea che è stata legittimamente mandata in onda di un'intervista cruda, molto dura in alcuni toni e totalmente da pubblicare, dico così, o da mandare in onda, visto che è stata la TV. Comunque, lasciamo questa vicenda e parliamo, della, non so, devo dire, ennesimo articolo sulle vicende di Sala, uno dei candidati alle primarie. Proprio questo weekend si vota per il centrosinistra a Milano. Non gli gioverà forse questo articolo sul Fatto Quotidiano. Luigi Franco racconta ancora la storia della villa a Zoagli di Sala. La villa, lo sviluppo nel racconto del Fatto Quotidiano è questo. Il vice sindaco di Zoagli costruì con la sua azienda la Edil Garden, la villa. E solo che, scrive il Fatto Quotidiano, mentre costruì la villa, era anche appunto vice sindaco di quel paese che votò in comune alcune varianti che permisero di costruire così la villa stessa. E questo, Sala, il vice sindaco, costruisce la villa e approva le varianti, è il titolo. C'è da dire che il vice sindaco di allora di Zoagli oppone subito un no comment appena lo chiamiamo e appena gli facciamo la prima domanda sulla villa di Giuseppe Sala. Eppure Michele Sacco, scrive il Fatto, di cose da raccontare ne avrebbe, perché fino al 2014 è stato il vice sindaco di Zoagli, comune che appunto ha approvato delle varianti chieste da Sala rispetto al progetto originario, ed è stato sempre Sacco a costruire la villa con la sua impresa Edil Garden, un ruolo doppio su cui non c'è modo di fargli domande al telefono vista la sua reazione. Ma a questo punto il Fatto Quotidiano con Luigi Franco fa un viaggio a Zoagli per cercare di cogliere qualche informazione. Nessuno vuole però dare spiegazioni sul doppio ruolo di Sacco, vice sindaco e costruttore di questa villa. Vabbè, il mistero continua. A proposito di case, invece, continua il mistero delle vicende di Roma. Roma, i dati sono impietosi: 9.000 abusivi pagano solo un indennizzo. Questo è il titolo dell'articolo di Ernesto Menicucci sul Corriere della Sera. E oggi è riproposta la storia da parte di Fabrizio Caccia della poetessa Geltrude Persiani, che, circondata dai suoi amati gatti Puffo, Puccetta e Tottina, viene immortalata dal Corriere della Sera e racconta come paghi 300 euro per vivere col marito in 90 metri quadri, in una zona dove è esattamente... nella piazza simbolo della Dolce Vita. Evviva! Con vista sulla Fontana di Trevi. E vabbè, sono cose che capitano, lo dico io questa volta. Nel comune di Roma dice: ma io pago questa clausola antisfratto. È una sorta di clausola che mi permette di rimanere qui anche se mi dicono che nessuno mi può vendere questa casa. Casa che fu assegnata a mio zio Carlo Alberto, fratello di papà Luigi. Tanto che viene sempre il dubbio che a Roma siano in eredità non solo le case private, ma evidentemente anche le case pubbliche. Ci deve essere qualche legge particolare che mi sfugge, ma evidentemente è così. Comunque tutti i giornali vanno ancora alla ricerca di qualche peculiarità, qualche particolarità, qualche storia. Per esempio Repubblica con Corrado Zunino racconta la storia del condominio di Via del Colosseo 62, dove vivono il giudice, il bandito, la squillo. Sembra quasi un racconto di un romanzo noir, ma Corrado Zunino scrive: è tutto vero. dall'androne al superattico è il palazzo dei Miracolati, via del Colosseo 62. Sergio Rizzo invece va un po' oltre, racconta quali sono le percentuali di morosi, cioè coloro che non pagano l'affitto, quando si parla di edilizia pubblica. Ebbene, i dati sono del Censis e di Federcasa, associazione che riunisce gli enti delle case popolari, insieme a Dexia Crediop, e sentite qui, quali sono le cifre? Volete sapere le morosità? Ecco, a Milano la morosità, cioè chi vive in un edificio, in una casa pubblica e non paga, sono il 10,2%. A Torino si sale al 32,5%, a Palermo il 34,7%, a Roma siamo al 41,2%, si sale a Cagliari al 44%, a Cosenza al 75%, fino ad arrivare all'astronomico 92,5% di morosi a Catania. A Catania morosi 9 inquilini su 10. Ma ci sono anche affitti in piazza San Marco a 76 euro dunque a Venezia. C'è da dire che evidentemente ovunque non è solo un malcostume romano. Ovunque in Italia c'è questo sperpero. Ma Sergio Rizzo, rimango alla sua firma, vince il premio Mani sul Volante per l'articolo che mi fa pensare di questa giornata. Vi lascio con questo bel fine settimana con la storia di Gianmario Pellizzari. Chi è, direte voi? Gianmario Pellizzari è un anonimo ex deputato della Democrazia Cristiana dal 1976 al 1992. Per questi anni da deputato aveva maturato un vitalizio da 5.481 euro e 15 centesimi al mese. Aveva però anche maturato una condanna. E per questo, ricordate, è stata fatta una legge alla Camera, è stato tolto e sospeso il vitalizio a tutti coloro che hanno subito una condanna passata in giudicato. Ma il signor ex onorevole Pellizzari ha fatto ricorso. Indovinate un po' voi questo ricorso come è andato a finire. Ve lo devo proprio dire? Ecco, avete azzeccato. L'ex deputato condannato riottiene il vitalizio. Ha fatto ricorso al tribunale di sorveglianza, ha ottenuto la riabilitazione e grazie alla riabilitazione gli è stata riconosciuta senza difficoltà e così l'ufficio di presidenza della Camera ne ha preso atto e ha prontamente restituito il vitalizio da 5.481 euro e 15 centesimi, con gli arretrati che gli erano stati sospesi 30.000 euro. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Milan e Mauro Meazza, gli zero titoli dell'informazione. Vabbè, sono cose che capitano anche queste. Beh, ringrazio l'ascoltatore che mi ha mandato una foto di un volante dicendo ne cambio una al giorno. Grazie. Io, come ho sempre detto e lo ribadisco, non mandate il conto qui a Radio 24. Non è che io, siccome io vi dico appunto Mani sul Volante per evitare, tenendolo ben stretto, di scagliare la vostra rabbia contro pezzi dell'auto che poi non vi ripago, sia chiaro. Scherzo, mandateci le vostre sigle al 349-238-6666, soprattutto in audio via WhatsApp, che così arrivano con la messa in onda molto molto chiara. Allora, le unioni civili, tutto sospeso, anche perché ce l'abbiamo ancora quel montaggino, tra poco lo facciamo sentire. Tutto sospeso nel senso che si riprende martedì, oggi è venerdì, al Senato è tutto chiuso. Si riparte a discutere da martedì, mercoledì si voterà, c'è un grande dibattito e ho detto io forse hanno bisogno alcuni di un minimo di pausa di 2 o 3 giorni, anche perché se ne sono sentite alcune tipo queste al Senato. Step child adoption. questa schifezza, ecco, che si chiama Stepchild Adoption. No alla Stepchild Adoption. Che rischia adoption. L'adpishon, direi che con questa buon weekend, cari senatori, rilassatevi, riposatevi che ne avete bisogno. Si scherza ovviamente. Comunque ci sono 40 senatori che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché dicono c'è un conflitto di attribuzione, il disegno di legge Cirinna non è stato discusso in commissione, quindi ancor prima di capire se verrà o meno approvato e come, c'è già un ricorso che pende alla Corte Costituzionale. Il presidente del Senato Grasso, come scrive il Corriere della Sera, dice è una roba da azzeccagarbugli. Poi c'è una proposta, racconta Goffredo De Marchis, è una proposta fatta in via riservata. Nonostante l'ultimatum dei 5 Stelle o il DDL Cirinna rimane così o non lo votiamo, il PD tratta con i grillini un pacchetto di emergenza. Questo forse è l'articolo più interessante. Goffredo De Marchis su Repubblica. Il PD insomma ha già l'intesa su quelli che escludono qualsiasi similitudine tra unioni civili e matrimonio e sul rafforzamento del controllo del giudice minorile per l'adozione dei figli. Ma il capogruppo in Commissione Giustizia, il senatore Lumia, tiene nel cassetto una mediazione che potrebbe far rientrare il dissenso di 30 senatori del PD sulla Stepchild Adoption, recuperando un bel po' di voti. È una carta da giocare all'ultimo minuto, dicono, il piano B. E quale sarebbe questo piano B? È il periodo di prova per i figli della coppia gay, che già era previsto da un emendamento firmato da un cattolico Pagliari e da un renziano Marcucci. Cioè dare un periodo di prova per le adozioni e poi dopo questo periodo di prova si verifica se... Beh, pare, non so, pare anche un pochino poco umana come decisione, no? Cioè si fa sempre un po' a metà in Italia, il ma anche, o li diamo in adozione o non li diamo, decidete, ma insomma, il periodo di prova, poi cosa fai? Poi li togli, li dai, poi li togli, ma va bene, comunque questo sarebbe il piano B per recuperare anche i democratici cattolici, lo racconta Repubblica. Mentre sempre su Repubblica il ministro della salute Beatrice Lorenzin spiega il suo no all'utero in affitto, che come abbiamo detto mille volte è vietato in Italia, la legge Cirinna non ne parla, ma chi è contro la legge fa notare questo punto, e la stessa Beatrice Lorenzin, che è ministro della salute, quindi fa parte del governo, dice è innegabile che la Stepchild Adoption apra la strada alla pratica dell'utero in affitto, che abbiamo sempre detto di non volere. Questa è la posizione del ministro. E dunque, riguardo a questo utero in affitto, che lei ha definito ultra prostituzione, si chiede la Lorenzin che libertà è quella di una donna ingaggiata da un'agenzia che le dà $30,000 con cui magari paga le rate del mutuo? È un mercato, c'è un business. Non stiamo donando cellule, stiamo pagando dei figli. Questa è l'ultima frontiera di mercificazione della donna. E dice ancora, quello che dico è che la surrogacy, così viene definita in inglese, così introduciamo un altro termine che farà un po' sbellicare, è proibita in questo paese, si vuole introdurla, servono consapevolezza e dibattito. Così il ministro Lorenzin. In tutto questo, nella politica c'è anche da registrare, ma in fronti diversi, i grandi movimenti di tesseramento nel Partito Democratico. Abbiamo raccontato già in passato la storia di Bisceglie, dove il sindaco è passato al PD e con lui 363 dipendenti dei comuni, assessori. Cioè c'è stata una folgorazione sulla via di Bisceglie. Tutti hanno visto nel PD la salvezza e si sono tesserati in massa. Ora, un fenomeno simile pare stia succedendo anche in Sicilia, dove anche Totò Cuffaro ha detto guardo al Partito Democratico e pare stiano aumentando le iscrizioni, le tessere al PD. Tanto che al PD qualcosa è scattata come lampadina di allarme ed eccolo qui, Sicilia, il PD congela il tesseramento, porte chiuse agli amici di Cuffaro. La minoranza del partito è in rivolta, lo racconta Elena Polidori a pagina 10 del Giorno, è esploso il caso in modo fragoroso, tutta una corsa a cercare un rimedio che può rivelarsi peggiore del danno. Succede infatti che Totò Cuffaro si sia premurato di annunciare che i suoi sodali politici di un tempo si sono spostati nel PD di Renzi e ora fanno le tessere. Frase piombata nel PD come un uragano. E Fausto Raciti, segretario del PD in Sicilia, al grido di non saremo eredi del cuffarismo, ha annunciato l'immediato congelamento del tesseramento sull'isola. Ma in politica qualcosa si muove. Tra l'altro Bersani ha, come racconta il Corriere della Sera, manifestato un po' il suo, come dire, non gradimento di alcune persone all'interno del partito. E si parla di Verdini, anche di Cuffaro. Se nel PD entra certa gente, io non so più se ci voglio stare. Questo è il titolo dell'articolo di Monica Guerzoni. Pierluigi Bersani, ex segretario del PD, dice: fermiamo chi non c'entra con noi. E poi tra l'altro apre un altro fronte, perché dice: a Roma sosterremo Morassut e non Giachetti, che sembra proprio il candidato invece sostenuto da Renzi. E questo è il clima. Tessere del PD ce n'è per tutti, caro Mauro Meazza, se ti vuoi mettere in fila. Costa poco, credo, non so, 30-40 euro. No, ma non sono, cioè, rispetto al tesseramento, ma non è una cosa. Gufo. Tu ti sei tesserato? No, mai, a nessun partito. E anche io ho fatto la stessa scelta, insomma, vabbè. Ma adesso perché dobbiamo tediare gli ascoltatori con queste cose, che ci sono un sacco di cose interessanti? Innanzitutto grazie, vedo che la lettera dell'avvocato è arrivata, sì, mi hai augurato, vedi, di passare a miglior vita, come vedi, invece è successo ieri. E no, ti volevo segnalare, volevo richiamare la tua attenzione sul discorso di ieri del governatore Draghi, sì, come no, sulle forze globali, sull'inflazione. Lui ha detto poi una cosa importante, cioè che è disposto a intervenire, pronti a intervenire con nuovi stimoli monetari. Trovi tutto quanto sul Sole 24 Ore di oggi. Ti consiglio un'attenta lettura della pagina 3, anche della ricostruzione. Alessandro Merli, guarda, bravissimo, anche Riccardo Sorrentino. Dei fattori strutturali, bravo, proprio Riccardo Sorrentino spiega i fattori a cui ha fatto riferimento Mario Draghi ieri. Oh, e poi ti voglio dire che invece se volti pagine, vai a pagina 5, vedi che lì la UE continua. Eccolo qua, bene romano su Mosca. Allora, sì, la pagella, senti, la cosa sta un po' così, sì, la pagella ce la danno a maggio, e però non sono contenti, hanno chiamato, no, non so se hanno chiamato i genitori, ma insomma non sono contenti perché dice che siamo ancora un po' troppo, come dire, spendaccioni, o insomma comunque facciamo poco per contrastare il debito. E Beda spiega tutto con dovizia, molto meglio di come, ecco, sto facendo, però, io. No, ma Mauro, infatti adesso il tema è molto serio, perché su sia Beda Romano sia negli altri giornali ci si pone questa domanda, che poi gli italiani si vogliono sentir porre: ci sarà una manovra aggiuntiva? Questa è poi la questione, perché Renzi pare già voglia escluderla assolutamente, ma può farlo in base a questi numeri? Vorrei cavarmela con le parole del poeta, lo scopriremo solo vivendo. Certo che a leggere oggi Beda Romano, che riferisce appunto della lente dell'Europa, insomma pare di capire che ancora siamo distanti con l'interpretazione, specialmente di questa famosa flessibilità. Secondo alcuni a Bruxelles ne abbiamo già presa abbastanza, e quindi bisognerà vedere come ci regoleremo, se poi ci passano con il credito o con il debito, come si dice a scuola. Comunque vedi a pagina 5. Oh, poi tante cose per il fine settimana, naturalmente insieme ai miei più cari auguri per il vostro impegno, mi pare, con l'Udinese, mi sembra. Esatto. Bene, allora tantissimi cari auguri. E il fatto è che domani già però va in vigore la depenalizzazione. Ad esempio, gli spettacoli osceni, non so se la tua rassegna stampa ci possa rientrare. Vediamo, visto anche il mio contributo, sarà depenalizzato, cioè significa non è più reato, non che non è più punito, non è più sanzionato. Ecco, non è che puoi, diciamo, fare tutto quello che ti pare, no, perché rimane comunque la sanzione, ma non c'è più il penale, così come non c'è più il penale per la guida senza patente. Naturalmente non si tratta del fatto che uno non l'abbia neanche ottenuta, ma che non ce l'abbia materialmente con sé, vorrei precisare. Oh, poi ci sono delle importanti indicazioni sul telemarketing. Hai presente quelli che ti chiamano a casa mentre stai cenando? Sì. Oh, Cassazione, garante della privacy, sono intervenuti a mettere uno stop agli automatismi. Ma io faccio rispondere mia moglie, perché è un ottimo Doberman, salta alla giugulare ed è uno spettacolo vedere lei che risponde a questi qui. Certo, però non possiamo neanche chiedere a tua moglie di rispondere a tutte le telefonate di tutti quanti. Hanno pensato un po' alla Cassazione e il garante della privacy, trovi tutto naturalmente come sempre su norme e tributi. Non troverai invece oggi il decreto banche, perché, come scopri leggendo il Sole 24 Ore, è slittato, però la prossima settimana, dillo tu, perché io decisiva di... forse se no è tornato Enrico Slitta, non lo so, no decisi, devi dire decisiva la parola lì, ecco, decisiva. Perché io non me la sento tanto di dirlo. No, pare che la prossima settimana sia quella in cui verrà varato appunto il decreto delle banche, dove ci sono anche i GACS, ti ricordi? Le garanzie. Sì, come no. Vabbè, non ti ricordi, c'è quel sistema di garanzie pubbliche per le banche per i crediti deteriorati. No. Va bene, tutto ciò premesso. Un bel pronostichino? No, ma con chi giocate voi? Ma dove gioca l'Inter? Dai, dimmi. Noi giochiamo già a mezzogiorno e mezzo, non so bene. In quella di Verona, che per voi è la fatale. Col Verona. 1-0, un risultato nuovo per 1-0 finirà. Va bene. Eravamo andati così bene, però, Alessandro. Guarda. Vabbè. Buona domenica a te, soprattutto. A te. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Milan, siete il diavolino della Radio 24. Eccola la nostra ascoltatrice geniale da Monte Carlo. Grazie, un abbraccio. Allora, abbraccio anche Fabrizio che ci dice: ti ascolto tutti i giorni dalla Norvegia, da Stavanger, ascoltando la rassegna stampa aumenta la nostalgia dell'Italia, visto che qui notizie da mani sul volante se ne sentono, se va bene, un paio all'anno, che noia. Ma insomma, Fabrizio, chissà se è noia invece o è un bene così in Norvegia. Allora, ora dobbiamo parlare della notizia tragica che viene dall'Egitto e con cui aprono moltissimi quotidiani, cioè la morte di Giulio Regeni. Ormai è abbastanza chiaro che dall'Egitto non ci hanno detto la verità. Lo scrivono tutti i quotidiani e l'autopsia ha rivelato tagli sul viso, sul corpo, colpi alla testa, addirittura segni di bruciature come fosse di sigarette spente. Insomma, Giulio Regeni, studente italiano scomparso il 25 gennaio in Egitto e trovato morto in un fossato tra il Cairo ed Alessandria, ha subito torture e botte. Questo lo scrive il Corriere della Sera, lo scrivono tutti i giornali in maniera molto molto chiara. Cosa faceva lì? Era un ricercatore, ma era anche una persona che cercava di denunciare le storture, soprattutto in ambito sindacale, che avvenivano in Egitto, e lo faceva attraverso alcuni articoli che uscivano sotto pseudonimo sul quotidiano Il Manifesto, tanto che oggi Il Manifesto titola Il testimone, la foto di Giulio Regeni in prima pagina, e scrive: pubblichiamo a fianco l'ultimo articolo inviatoci da Giulio Regeni, sollecitato via mail a metà gennaio. È un articolo sui sindacati indipendenti in Egitto. Ovviamente in questo caso è firmato proprio Giulio Regeni, visto che Il Manifesto racconta la cautela dello pseudonimo, ora è tragicamente superata dai fatti. E scriveva Regeni: al Sisi, cioè il presidente egiziano, ha ottenuto il controllo del Parlamento con il più alto numero di poliziotti e militari della storia del paese, mentre l'Egitto è in coda a tutte le classifiche mondiali per rispetto della libertà di stampa. Eppure i sindacati indipendenti non demordono. Si è appena svolto un vibrante incontro presso il Centro Servizi per i Lavoratori e i Sindacati, tra i punti di riferimento del sindacalismo indipendente egiziano. Alla fine saranno una cinquantina le sigle che sottoscriveranno la dichiarazione di chiusura, rappresentanti dei più svariati settori economici. Ancora più avanti scriveva Regeni: negli ultimi due anni repressione e cooptazione da parte del regime hanno seriamente indebolito queste iniziative, al punto che le due maggiori federazioni non riuniscono la loro assemblea generale dal 2013. Insomma, raccontava delle proteste dei sindacati e raccontava della repressione del regime egiziano. Ora l'Italia chiede chiede che sia fatta luce, ovviamente. Repubblica con Carlo Bonini lo scrive chiaramente, e cioè la polizia c'è dietro tutto questo o qualche reparto speciale della polizia egiziana? Anche perché spunta una mail proprio che Regeni scrisse al Manifesto, nella quale dice: sono preoccupato. Spunta insomma la linea e del delitto politico. Ovviamente speriamo che almeno la chiarezza, seppure postuma, sulla fine di Giulio Regeni sia fatta. Voglio segnalare due cose in chiusura. La prima è questa: Flavio Insinna, celebre conduttore televisivo, ha fatto questa scelta: dono la barca a Medici Senza Frontiere, la mia barca Roxana, e la dono a Medici Senza Frontiere perché facciano operazioni di soccorso dei migranti. Intervistato da Valeria Teodonio su Repubblica, come è nata la decisione, dice Flavio Insinna: io sono cattolico, penso sia giusto aiutare, lottare. Un giorno dormo poco, mi sono svegliato di soprassalto, vedendo il TG mi sono arrabbiato, ho pianto, ho dato un calcio a una porta e mi sono detto: facciamo questa cosa. E dunque dona la barca a Medici Senza Frontiere. Così Flavio Insinna su Repubblica. E poi che devo dire? Niente, devo dire che c'è sempre su Repubblica la rivolta delle città assediate dai cinghiali. Caccia tutto l'anno. È questa la carta costa? La diamo a qui. Facciamo un voto democratico. Lo diamo a questo. Una pagina di Jenny Ermeletti su Repubblica. Caccia aperta tutto l'anno per le città assediate dai cinghiali. La rivolta delle città assediate dai cinghiali, gli assedi. Ma chi se ne frega!